Gente che saluta solo con i guanti, e qua non si può tacere, deve andare avanti. Provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti. Buonasera e benvenuti a tutti alle buonanotte di allineamenti. Qui è Gas che vi parla e sta per iniziare una nuova settimana. Sta per chiudersi una nuova giornata. Io spero che il vostro weekend sia andato molto molto molto bene. Io devo dirvi che ormai anche il weekend non li vivo più. Sono proprio in un periodo dove faccio tantissime cose e quindi il tempo vola. Siamo già a dicembre, tra poco è Natale e bisogna pensare ai regali. È uno dei regali più facili da fare. È un bel libro o un bel album musicale. E io questa settimana non voglio far altro che parlarvi di questa... di questa relazione, di questo incrocio, di questi incontri che si fanno tra il mondo della poesia, il mondo della letteratura e il mondo della musica. Infatti andremo ad ascoltare alcuni brani e a leggere alcuni testi che si sono fusi, contaminati, condizionati nel corso degli anni. Il primo che andiamo a vedere oggi è un brano o è una canzone, cioè dipende. Andiamo in ordine cronologico. È un racconto di Joseph Conrad, si chiama La linea d'ombra. Forse qualcuno di voi l'ha letto, l'ha conosciuto, l'ha sentito di sicuro, questa storia nei mari del sud-est asiatico, che è stata ripresa da Lorenzo Cherubini in Arte Giovanotti in una sua canzone, in un suo album degli anni 90. Adesso io non mi ricordo più la data precisa, mi ricordo il titolo, era L'albero, e la canzone per l'appunto si chiamava La linea d'ombra e aveva un testo che io ascoltavo sempre da bambino in macchina e mi è piaciuto. Quindi a livello cronologico della mia vita è arrivata prima la canzone del libro, che poi naturalmente ho dovuto leggere e di cui prenderò qualche breve passo, soprattutto il primo passo, e vi leggerò subito dopo la canzone. Ora vi lascio con La linea d'ombra di Giovanotti. D'ombra, la nebbia che io vedo a me davanti, per la prima volta nella vita mia mi trovo a saper quello che lascio e non saper immaginare quello che trovo. Mi offrono un incarico di responsabilità, portare questa nave verso una rotta che nessuno sa. È la mia età mezz'aria, in questa condizione di stabilità precaria, ipnotizzato dalle pale di un ventilatore sul soffitto, mi giro e mi rigiro sul mio letto. Mi muovo col passo pesante in questa stanza umida di un porto che non ricordo il nome. Il fondo del caffè confonde il dove e il come. E per la prima volta so cos'è la nostalgia, la commozione. Nel mio bagaglio panni sporchi di navigazione. Per ogni strappo un porto, per ogni porto in testa una canzone. È dolce stare in mare quando so gli altri a far la direzione. Senza preoccupazione, soltanto fare ciò che c'è da fare. E cullati dall'onda notturna sognare la mamma, il mare. Mi offrono un incarico di responsabilità, mi hanno detto che una nave c'ha bisogno di un comandante, mi hanno detto che la paga è interessante e il carico è segreto ed importante. Il pensiero della responsabilità si è fatto grosso. È come dover saltare al di là di un fosso che mi divide dai tempi spensierati di un passato che è passato, saltare verso il tempo indefinito dell'essere adulto. Di fronte a me la nebbia mi nasconde la risposta alla mia paura. Cosa sarò? Dove mi condurrà la mia natura? La faccia di mio padre prende forma sullo specchio, lui giovane, io vecchio, le sue parole che rimbombano dentro al mio orecchio. La vita non è facile, ci vuole sacrificio, un giorno te ne accorgerai e mi dirai se ho ragione, arriva un giorno in cui bisogna prendere una decisione. E adesso è questo giorno di monsone, col vento che non ha una direzione, guardando il cielo un senso di oppressione, ma è la mia età, dove si guarda come si era, non si sa dove si va, cosa si sarà. Che responsabilità si hanno nei confronti degli esseri umani che ti vivono accanto, e attraverso questo vetro vedo il mondo come una scacchiera, dove ogni mossa che io faccio può cambiare la partita intera, ed ho paura di essere mangiato, ed ho paura pure di mangiare. Mi perdo nelle letture, i libri del Zen e del Vangelo, l'astrologia che mi racconti il cielo, galleggio alla ricerca di un me stesso con il quale poter dialogare, ma questa linea d'ombra non me lo fa incontrare. Mi offrono un incarico di responsabilità, non so cos'è il coraggio, se prendere o mollare tutto, se scegliere la fuga, affrontare questa realtà difficile da interpretare, ma bella da esplorare, provare a immaginare come sarò quando avrò attraversato il mare, portato questo carico importante a destinazione, dove sarò al riparo dal prossimo monsone. Mi offrono un incarico di responsabilità, domani andrò giù al porto e gli dirò che sono pronto per partire, getterò i bagagli in mare, studierò le carte. E aspetterò di sapere per dove si parte, quando si parte. E quando passerà il monsone, dirò: levate l'ancora, dritta, avanti tutta. Questa è la rotta, questa è la direzione, questa è la decisione. Altre volte, calma piatta, grande specchio della mia disperazione. Soltanto i giovani hanno simili momenti. Non sto parlando dei giovanissimi. No, i giovanissimi in effetti non hanno momenti. È il privilegio della prima giovinezza, di vivere in anticipo sui propri giorni, in bella continuità di speranza che non conosce né pause né introspezione. Ci si chiude alle spalle il piccolo cancello della fanciullezza e si entra in un giardino incantato, dove anche le ombre splendono di promesse e ogni svolta del sentiero ha una sua seduzione. Non perché sia una terra inesplorata, si sa bene che tutta l'umanità c'è passata per quella stessa strada. È il fascino dell'esperienza universale, da cui ci si aspetta una sensazione non comune o personale, un pezzo di se stessi. Riconoscendo le orme di chi ci ha preceduto, si va avanti, eccitati, divertiti, accogliendo insieme la buona e la cattiva sorte, le rose e le spine, come si suol dire, il variegato destino comune ha in sé tante possibilità per chi le merita, o forse per chi ha la fortuna, già. Si va avanti, e il tempo, anche lui va avanti, finché dinanzi si scorge una linea d'ombra che ci avvisa che anche la regione della prima giovinezza deve essere lasciata indietro. Questo è il periodo della vita in cui è probabile che arrivano i momenti di cui ho parlato. Quali momenti? Momenti di noia, ecco, di stanchezza, di insoddisfazione, momenti precipitosi. Parlo di quei momenti in cui chi è ancora giovane è portato a compiere atti avventati, come sposarsi all'improvviso o abbandonare un lavoro senza alcun motivo. Questa non è la storia di un matrimonio, non ero arrivato tanto. Il mio atto, per quanto avventato, aveva le più le caratteristiche del divorzio, della diserzione quasi. Senza una ragione plausibile Per una persona di buon senso, mollai il mio lavoro, lasciai il mio posto, abbandonai la nave di cui la cosa peggiore che si potesse dire era che era una nave a vapore e perciò forse non meritava quella fedeltà cieca. Comunque, non serve cercare di mettere quelle pezze a quello che io stesso anche allora sospettai essere poco più di un capriccio. Accadde in un porto dell'Oriente. La nave era una nave dell'Oriente, nel senso che allora aveva quel porto di armamento. Trafficava fra le isole oscure su un mare blu tra punto di scoglie, con la bandiera rossa della marina mercantile britannica sul coronamento a poppa e la bandiera armatoriale in testa d'albero rossa anch'essa, ora con un bordo verde e una mezzaluna bianca. Ecco qui. Così si apre il racconto La linea d'ombra di Joseph Conrad, un libro che vi consiglio di leggere, come vi consiglio di ascoltare tutto il libro di tutto l'album, scusate, di Jovanotti, che è un bellissimo album dove ci sono dentro canzoni che hanno fatto un po' la storia di quegli anni, da Questa è la mia casa, Bella e altre che non mi vengono in mente. Detto questo, chiudiamo questa settimana, ne apriamo una nuova, chiudiamo questa giornata, ne apriamo una nuova domani mattina. Io vi auguro una buonissima serata e rimanete con noi. Da domani, Marco Catania. Gente che saluta solo con i guanti, qua non si può tacere, deve andare avanti, provare per vedere quante sono le menti che parlano la buonanotte di allineamenti.